Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Sostenibile e accessibile, così sarà il design del futuro, parola del Salone del Mobile. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, torna protagonista il design con l'evento degli eventi in corso a Milano, vetrina e festa insieme. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi del volantino, strumento di promozione antico ma efficace, e per il focus sui trend di videogame mania, quando i videogiochi fanno tendenza. Prima però ci sono come sempre le notizie e curiosità della settimana. Ha aperto a Londra il primo ristorante interattivo, tavolo touchscreen. All'Inamo Restaurant di Soho il cibo si ordina cliccando sul monitor, che offre anche giochi per ingannare l'attesa. E una webcam puntata sulla cucina permette di seguire i cuochi. La crisi ha costretto il 40% delle famiglie a tagliare il carrello della spesa alimentare, con meno pane, vino, carne e olio d'oliva, che nel 2009 registrano tutti cali tra il 30 e il 40%. Lo rivelano i dati elaborati dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Boom degli acquisti negli hard discount, anche se il supermercato resta il luogo di acquisto preferito, seguito dal negozio tradizionale e dal mercato di quartiere. È boom in Francia per i bar à chignon, lanciati dalla celebre hairstylist Marianne Gray sul modello del Nails Bar. Sono locali in punti di passaggio strategici, dove si entra senza appuntamento per farsi fare la nota acconciatura, tornata di gran moda. Un quarto d'ora al massimo il tempo di esecuzione, per un prezzo che oscilla tra i 10 e i 20 euro. È già cominciata la conversione dei primi negozi UPIM in Coin. A pochi mesi dall'acquisizione, le città di Lecco, Messina, Parma, Pavia, Pisa e Reggio Calabria sono le prime ad ospitare i 6 nuovi department store Coin al posto dei negozi UPIM. Nel corso del 2010 la pubblicità online negli Stati Uniti supererà quella su giornali, riviste e altri media, come opuscoli e volantini. È la previsione contenuta in uno studio della società americana Outsell. È uno dei gadget per ciclisti più richiesto. Inserito fra i raggi della bici, Spoke Light trasforma le ruote della bici in due cerchi luminosi colorati. Utile di notte. La borsa della spesa. Il settore ha sulle spalle il suo annus horribilis, ma il Salone Internazionale del Mobile in corso a Milano, anzi i saloni come ormai si usa dire, ha registrato il tutto esaurito. Oltre 2500 gli espositori presenti in fiera, oggi è la giornata aperta anche al pubblico, non solo agli operatori del settore, domani si chiude. E poi c'è il fuori salone, decine di eventi disseminati per tutta la città, installazioni, mostre, convegni, feste. Un indicatore ad alto tasso di creatività per capire quali saranno le tendenze, le idee, i nomi di cui si parlerà nei prossimi mesi. Abbiamo affidato l'esplorazione alla nostra Lara Vecchio. Per chi può o semplicemente vorrebbe, bagni e cucine si trasformano in veri e propri luoghi di culto, dove si mischiano comfort, tecnologia, design e, perché no, qualche capriccio. Ma quali sono le nuove tendenze? Partiamo proprio dal bagno. Definitivamente superata la sensazione di un luogo cui dedicare spazi minimi. Torna la vera e propria sala da bagno. La vasca in particolare diventa un bagno spa, dove l'acqua crea vere e proprie coreografie per mezzo di erogatori che in certi casi sembrano addirittura fontane, pur tornando alle forme della grande classicità. Meno frenetica la trasformazione delle cucine, dove vincono ancora l'eterno bianco, declinato in tantissimi materiali diversi, e i legni scuri e importanti, che ancora resistono alle mode e al tempo che passa. Si arricchiscono però di patine e trattamenti colorati, che sono il vero segno dell'innovazione in cucina. Al salone è un gran fiorire di intere pareti cucine, pareti continue, in cui si evita il più possibile di sottolineare gli elettrodomestici e la scansione tra basi e pensili. A rinnovarsi più velocemente è invece la tecnologia applicata alla cucina, con materiali qui sì innovativi, fino a reinterpretare un materiale classico come la ghisa, dai designer affermati alle future generazioni. Loro non hanno ancora la malizia per assecondare le esigenze di mode e mercati. Il loro bagaglio? Sogni e tanta fantasia. Alessio Pappa. Slogan è seduto in movimento, Wood Collection, perché abbiamo fatto tutto quanto in legno. Una è una culla, rappresenta una mamma che culla il proprio bambino, nell'atto di cullare il proprio bambino, Stilizzata, stilizzato ovviamente. ovviamente. Poi un'altra chaise longue a dondolo, chiamata Morpho, appunto perché riprende la morfologia delle curve corporee umane. Mentre l'ultima è una chaise longue doppia, che rappresenta la forma dello yin yang, chiamata Natural Equilibrium, perché è necessariamente da utilizzare in due persone, creano l'equilibrio naturale a livello fisico, perché sennò ci si ribalta, e filosofico. Silvio Mascheroni e Jacopo Castelli al Salone Satellite fermano il traffico, si fermano tutti davanti alla gigantesca poltrona rossa, una scultura cubica con le sembianze di un immenso trono. Noi siamo partiti da un altro concetto, che è quello di rappresentare una delle realtà del nostro tempo, che sono la frenesia, questa battaglia che si fa contro il tempo. È una poltrona, che tutti noi abbiamo in casa, oggetto icona del relax, e l'abbiamo, trasformata, ingrandendola di dimensioni, e, l'abbiamo messa appunto sulla strada, facendo sì che una persona, quando la veda, rimanga appunto sorpresa. E questa è la nostra risposta a questo stile di vita frenetico. I creatori di questa curiosa seduta non sono designer, ma due giovani fantasiosi grafici. Cibo e design, un connubio sempre più stretto che va dagli attrezzi per cucinare alle cucine d'autore, dagli elettrodomestici alle posate, fino al food design e alle creazioni dei grandi chef. Un connubio al quale è dedicato Around Food, numero speciale della rivista Area sull'eccellenza del design che ruota intorno al cibo, numero uscito proprio in occasione del salone. Cibo e design sono due mondi affini, ci dice il direttore di Area, Marco Casamonti. Un tempo si diceva che l'architetto, questo lo diceva Walter Gropius, è in grado di progettare, poi frase ripresa celebre, ripresa anche da Ernesto Nathan Rogers, è in grado di progettare dal cucchiaio alla città. In questo caso l'abbiamo sperimentato direttamente, ovvero sia sentendo parlare Davide Scabini e illustrare i suoi piatti, si può scoprire come i metodi di progettazione, tanto per quanto riguarda il cibo, cioè un particolare piatto, tanto per quanto riguarda particolari opere di architettura, non sono poi così distanti. Cioè l'arte del comporre, di mettere insieme cibi, sapori, ma anche materiali per costruzioni, alla fine le tecniche di invenzione sono molto similari. Ora cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Parliamo di uno strumento di promozione che nei supermercati non ha rivali, nonostante sia il più vecchio. Volete far arrabbiare il direttore marketing di una catena di supermercati? Parlategli di volantini, cioè di quell'insieme di pagine stampate che illustrano la politica commerciale dell'insegna in quella settimana o in quei 15 giorni. Si arrabbierà perché più o meno sa quanti ne stampa, più o meno sa quanti ne distribuisce nelle caselle della posta, sa quanto gli costano, più o meno una montagna di soldi, ma non sa se i soldi spesi vanno davvero a buon fine. Si arrabbierà moltissimo anche quando gli chiederete se ha studiato un'alternativa, perché di alternative non ce ne sono. I costi sono alti, la stampa lascia desiderare, specie per i prodotti freschi, molti clienti entrano nel negozio agitando il volantino, quasi fosse quella la vera lista della spesa, e per molti lo è davvero, ma nessuno capisce quante vendite il volantino riesce a indurre. Secondo le ricerche di mercato, comunque, più del 50% dei consumatori guarda sempre il volantino che riceve a casa. La percentuale sale, e di molto, per gli anziani. Un italiano su tre, grazie ai volantini, compara i prezzi delle varie insegne. Un po' meno del 60% decide dove fare la spesa anche sulla base delle offerte promozionali del volantino, e addirittura il 10% dichiara agli istituti di ricerca di decidere dove fare la spesa proprio studiando il volantino. Come si vede a queste poche note, lo strumento di comunicazione principe dei supermercati è il tanto bistrattato volantino, che lo si voglia o no, che faccia arrabbiare o no i direttori marketing e tant'altro. Ma se qualche ascoltatore ha studiato una soluzione alternativa, si faccia sotto, perché gli si aprirà una miniera d'oro. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere per questa seconda parte dedicata all'analisi delle nuove tendenze. Ci ha raggiunto come sempre la nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Videogame mania è il tema della puntata di oggi. La grafica, il linguaggio, l'universo dei videogiochi contagiano ormai moda, design, marketing, comunicazione, persino arte e cultura. Dagli urban game che trasferiscono su strada le sfide dello schermo ai social game come Farmville, Fishville, che appassionano migliaia di utenti con agricoltura e itticoltura virtuali, pensate dagli adventure game basati sui classici della letteratura e sulla Bibbia fino ai giochi didattici sul risparmio energetico, per non parlare dei fitness game o dei videogiochi basati sulla memoria che vengono usati nei centri anziani. I videogiochi, insomma, non sono più solo roba da ragazzi. Patrizia. Sì, è così. I videogiochi hanno fatto un grande passaggio, un salto di status socioculturale. Sono passati cioè dall'essere considerati semplice genere di intrattenimento elettronico, quindi una specifica merce ludica, a una nuova disciplina, per esempio, di studi accademici nel campo dei new media, cioè si parla di games studies. Quindi si sono liberati anche da molti stereotipi che vedevano i videogiochi appunto come oggetto delle passioni di ragazzini brufolosi, un po' nerd. Mentre sappiamo che i videogiocatori sono soprattutto adulti e una quota rilevante di loro sono donne, per esempio, e appunto anche si sono liberati degli stereotipi come passatempo discutibile anche sul piano cognitivo ed educativo per persone che alla fine sono un po' instupidite da questa attività. Dunque era importante questa premessa sullo sdoganamento del videogioco, che è un oggetto culturale complesso a tutti gli effetti, che va molto al di là dello svago, proprio per avere una cornice di senso in cui scrivere tutte le contaminazioni con grande impatto economico e anche sui consumi con altri settori economici, appunto come quelle tra videogioco e moda, design, advertising, comunicazione, eccetera. Per esempio la cultura e gli oggetti videoludici entrano anche negli spazi istituzionali della cultura e dell'arte, cioè i musei. Si chiama Gaming Culture ed è la grandissima mostra che verrà inaugurata nel 2012 ed è già in preparazione presso uno dei più grandi, se non il più grande museo del mondo, lo Smithsonian di Washington DC. Ci sarà appunto a 360 gradi una mostra sull'arte dei videogiochi. L'ultima campagna di O'Neill, marchio sportivo molto famoso, è basata su un videogioco in cui si surfa con un avatar tridimensionale tra le onde della realtà aumentata, la augmented reality AR. Quindi basta un foglio, un computer e un video per accedere a questa nuova modalità interattiva e tridimensionale di augmented reality come nuova formula di campagna di comunicazione. E rimanendo nella moda, sono circa 1000 i negozi della catena di abbigliamento H&M di tutto il mondo che già vendono una linea di abiti disegnata da un giocatore di The Sims, il videogioco di ruolo multiplayer online, che è stato un blockbuster del 2009, questo secondo le valutazioni della Bibbia dell'Entertainment Hollywood Report, e che quest'anno nel 2010 festeggia tra l'altro il 10° anniversario. Ed è uscita proprio in questi giorni in occasione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, che chiude i battenti domani, e l'abbiamo sentito anche nella prima parte, Loft Stuff, ultima applicazione del pacchetto del gioco che consentirà, giocando, di realizzare la casa dei sogni. Quindi potremo nelle case del videogioco sederci sulla chaise longue di Le Corbusier, sulla Barcellona di Miss Van der Rohe, sul divano bocca di Guffram, oppure entrare in stanze illuminate dalle lampade di Castiglioni o dalle dattilo di Manari. Mentre gli oggetti fisici del design, per esempio, entrano nella dimensione online delle nostre esperienze, anche il videogioco esce dagli schermi e va per strada. Dentro dentro la ricorsività tra online e offline, il videogioco ha un ruolo importante in quanto aumentano le esperienze di urban gaming che poi si fanno nelle strade, e questa è una pratica metropolitana anche molto interessante per quanto riguarda la riappropriazione e la risignificazione degli spazi pubblici, dei luoghi delle nostre città. Un esempio su tutti, Pac Manhattan di New York. Qui la città si trasforma nel campo d'azione del celebre videogioco Pac-Man e i giocatori per strada, vestiti da fantasmini, vengono indirizzati naturalmente dai giocatori online. E anche la politica non è rimasta immune. Dalla fantapolitica all'impegno civico, anche le istituzioni entrano nel mondo dei videogiochi. Con Geopolitical Simulator, un videogame che riproduce scenari politici basati su dati reali, chiunque può dimostrare la propria abilità di statista. In The Bailout Game, invece, bisogna prendere decisioni che influenzeranno la borsa, scegliendo chi elargire prestiti di Stato e chi far fallire. E con Peacemaker potete tentare di risolvere il conflitto israelo-palestinese. È l'educazione civica, la nuova frontiera dei videogame. Negli Stati Uniti sta facendo scuola Games for Change, un'organizzazione no profit che promuove i videogiochi dedicati ai diritti umani, ambiente, povertà e conflitti. Collabora fra gli altri con l'amministrazione Obama, l'ONU e la Banca Mondiale. Se il Pentagono usa i giochi per addestrare i soldati, dicono i suoi fondatori, perché non usarli per mettere fine alle guerre? È quello che fa Darfur is Dying. Ideato da uno studente nel 2006, distribuito online gratuitamente, mostra le conseguenze del genocidio in Sudan e costringe i giocatori, oltre 1 milione finora, a esperienze come la ricerca d'acqua e la fuga dai miliziani, stimolandone poi l'attivismo. Patrizia, un tempo demonizzati, i videogiochi stanno vivendo un vero e proprio riscatto, è così? Sì, è bastato un decennio, diciamo, per trasformare il videogioco in un fenomeno con dignità accademica, come abbiamo visto. La disciplina sta tra l'altro prendendo piede in moltissime università del mondo e anche in Italia. Abbiamo un'iniziativa per ora quasi unica a livello universitario. Da fine 2009, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, ci sono dei workshop dedicati alla cultura videoludica nipponica, in cui si esplorano proprio le caratteristiche, le pratiche di circolazione, di fruizione e le estetiche dei videogiochi. Sempre in questi ultimi anni ne è stata riconosciuta l'efficacia pedagogica, dimostrata e divulgata in particolare da Steven Johnson e da James Paul Gee, che sostengono proprio il learning by playing, cioè l'apprendimento, l'imparare attraverso il gioco e il videogioco, che infatti sviluppa capacità, abilità e competenze tattiche, strategiche di presa di decisione, di rispetto delle regole, eccetera, eccetera. Come dice Matteo Bittanti, tra l'altro, si impara a pensare con le dita, che è un modo molto efficace per capire di cosa stiamo parlando. E qui da citare il successo di giochi come Brain Training di Nintendo, cioè tutti quei giochi di allenamento cerebrale che non a caso sono molto usati, molto seguiti, soprattutto dai giocatori anziani. La cosa da sottolineare però è che il videogioco, più che un medium, andrebbe trattato proprio come una declinazione ludica più ampia del digitale, che si confronta con altre forme espressive tradizionali, le influenza e ne è influenzato, e parliamo di cinema, di letteratura e di fumetto. Questo per ribadire che appunto non parliamo solo di una merce, solo di un fenomeno di intrattenimento, ma di un prodotto culturale molto più complesso. Per esempio, nell'ibridazione e nello scambio con la letteratura, sono due romanzi che sono diventati videogames di successo. Uno è Il guardiano degli innocenti del polacco Andrzej Sapkowski, a cui si è ispirato il gioco The Witcher, e un altro è il romanzo Metro 2033 di Dmitry Glukhovsky, appunto base per l'omonimo gioco. Quindi un esempio di rimediatizzazione, ma anche di contagio con forme espressive considerate più alte, come quella del romanzo. Passando alla tecnologia e all'elettronica di consumo, da segnalare che nella nuova release del software software per iPhone c'è Game Center, cioè un sistema di social network legato alle attività videoludiche, che non sorprende visto il successo di tutti i giochi e delle applicazioni ludiche sullo smartphone di Apple. È una grande opportunità anche per la pubblicità, e questo spiega l'applicazione iAd, che sta per advertising, che verrà adottata non a caso anche dal fratello maggiore iPad entro l'anno. Consapevoli che la funzione dei videogiochi non è solo far divertire, ma informare, insegnare, spingere all'impegno, anche quello civico e sociale, ci spieghiamo anche alcuni utilizzi del videogioco che tra il serio e il faceto riscuotono un po' la curiosità anche in rete. In molti pub di Francoforte, per esempio, ci sono delle toilette maschili interattive. C'è un'automobile su un video ad altezza occhi che sbanda seguendo il percorso dell'urina. Il messaggio è: se stai facendo pipì qui, hai certamente bevuto, sei in questo pub, quindi prendi un taxi e non guidare ubriaco. Rischieresti di fare quello che hai appena visto fare alla macchina nello schermo davanti a te. Questo può essere un esempio della cosiddetta fan theory, cioè della teoria che la dimensione ludica favorisce l'apprendimento non solo di nozioni di informazioni, ma anche e soprattutto di riflessioni critiche, e quindi è un elemento nuovo da inserire per tutte le attività di sviluppo, stimolo della coscienza civica, e quindi spingere le persone a fare cose migliori attraverso il divertimento. Cosa c'è di nuovo a... Arriva da Stoccolma la segnalazione di oggi su videogiochi e dintorni. In linea come sempre c'è la nostra Urban Watcher di Memi, Alessia Zampano, bentornata, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a voi. E sì, Patrizia l'ha appena citata, e non è un caso infatti che si chiami proprio The Fun Theory, il progetto di comunicazione creativa del marchio Volkswagen, nata proprio per promuovere comportamenti virtuosi trasformandoli in pratiche giocose. Una delle iniziative ha avuto lo scopo di incoraggiare il riciclo delle bottiglie in vetro, che in Svezia pare sia molto inferiore a quello della plastica e dell'alluminio. L'idea è stata di trasformare un cassonetto in una sorta di raccoglitore console, come fosse in pratica una vecchia macchina a gettoni, le cosiddette arcade, quelle della prima generazione di videogiochi, con tanto di schermo quindi e di suoni che sottolineano lo score, il punteggio, e luci intermittenti che lampeggiano in rosso e in verde a seconda della velocità con cui le bottiglie vengono inserite. Chiaramente più bottiglie si lanciano nel cassonetto, più il punteggio sale. Questo speciale raccoglitore è stato piazzato in prossimità della Soda Station e in una sola sera è stato utilizzato da un centinaio di persone, mentre quelli vicini, senza la modifica videoludica per intenderci, hanno visto avvicinarsi solo un paio di persone, a testimonianza di quanto un approccio ludico possa realmente modificarne i comportamenti. Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione chiariamo subito un eventuale equivoco, le criticità sull'uso dei videogiochi per molte ore, soprattutto per i ragazzini, restano. Quello che vogliamo sottolineare invece è l'efficacia del linguaggio, un linguaggio che, ti chiedo, avrà sempre più successo? Sì, naturalmente anche qui, come in tutte le cose, è una questione di misura, e quindi certamente il warning che tu fai è da accogliere in pieno. Però, come dicevamo, da strumento di svago diventa videologia, come dicono gli esperti con la V. Significa quindi che il videogioco, appunto, è un artefatto culturale e ha tutti i suoi codici linguistici, iconografici e tematici, non potrà più essere relegato solo all'entertainment, e soprattutto nei casi, che non sono tutti, in cui rappresenta una vera opera d'autore, può diventare alla stregua del cinema una dimensione molto influente sulla cultura contemporanea. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, puntata che potrete come sempre riascoltare e scaricare dal nostro sito radio24.it, sezione podcast, in attesa di risentirci domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.